Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcune settimane fa una ragazzina di Agrigento è stata non rifiutata dalla scuola all'interno della quale si stava recando, ma comunque i professori hanno fatto gentilmente presente a chi lo accompagnava che quell'accompagnamento non era poi così tanto gradito. E perché non era gradito? Perché il padre di questa ragazzina si chiama Ignazio Cutrò, è un imprenditore agrigentino che da oltre un decennio combatte Cosa Nostra, denuncia ed è un collaboratore di giustizia. I professori gli hanno fatto capire che insomma questi due bravi ragazzi, questi due carabinieri che accompagnavano una figlia, insomma non è che poi fossero così graditi, come se invece fosse bello, no? A quell'età farsi accompagnare a scuola scortati. Io lo trovo un gesto veramente clamoroso. Ovviamente il padre che ha fatto, ha scritto alla scuola e ha detto: signori miei, arrivederci e grazie, mia figlia in primis non vuole più entrare in questa scuola. E io do, per capirne di più, il buongiorno proprio all'imprenditore Ignazio Cutrò. Buongiorno Cutrò. Buongiorno. Allora, sua figlia è rientrata o no in quella scuola? Allora, mia figlia dopo due settimane è rientrata a scuola, perché è giusto che io sono, volevo precisare una cosa, sono un testimone di giustizia, nulla da togliere collaboratore. Sì, sì, certo, no, per carità, ha fatto bene a chiarirlo, è un testimone di giustizia, cioè, per dirlo in soldoni, non è un pentito, ma è una persona informata di fatti che è andata a denunciare. Questo è giustissimo che lei lo abbia no, specificato. Più altro, mi hanno dato lo status di testimone di giustizia. Certo. Noi siamo tutta la famiglia sotto protezione. Assolutamente. No? Togliere, e anzi, il lavoro dei pentiti è essenziale. Assolutamente, ma ha fatto benissimo a precisarlo. Sua figlia quindi non voleva più tornare a scuola. Ma siccome noi stiamo lottando per non andare via dal nostro paese, quindi Veronica ha capito e gli ho detto chiaramente che era giusto che ritornasse in quella scuola. Se c'è qualcuno che non vuole capire il nostro operato o dà un fastidio, se ne vanno loro. Certo. Cioè, mi sembra anche giusto. Secondo lei com'è nata questa situazione? Cioè, perché il preside magari ha subito delle pressioni? Sono sicuro di no. Perché le professoresse hanno subito delle pressioni? Sono sicuro di no. Perché i genitori magari avevano qualcosa da dire, su questo sono un po' meno sicuro. Ma la sensazione è stata che Veronica era già da 10 giorni che andava a scuola scortata con i carabinieri. Una bella mattina si sono accorti dei carabinieri, cioè è impossibile questa cosa. Giusto? Certo. Allora è nata questa polemica, non volevano che la scorta entrasse nella scuola e poi giustamente è scoppiato il caso. Io non voglio polemizzare più di tanto, perché poi ci siamo chiariti con il preside, perché il problema è nato con un vicepreside e un professore, giusto? Però secondo me non è accettabile questo. No, non è assolutamente accettabile, anche perché io sono sicuro che il corpo docente sarà sensibilissimo. Ci sono dei professori che sono stati accanto a Veronica anche dopo, diciamo, il fatto, quindi non possiamo fare di nulla e niente un fascio. No, di tutto nel buon fascio, diciamo, assolutamente no. Però il fatto è successo e spero che non succeda più, perché effettivamente è stata una cosa grave, perché durante la telefonata, anzi, mi si è fatto capire pure che io avevo sbagliato a denunciare, quindi mia figlia era pure sotto scorta, quindi... Questo è molto molto grave. Chi è che l'avrebbe fatto capire che è lei la colpa e l'origine di dei mali di sua figlia? La telefonata che ho avuto con il vicepreside, perché io nel mio comunicato stampa l'avevo detto chiaramente che il preside speravo che era informato, quindi il preside non ne sapeva niente, perché di fatti poi ci siamo visti e abbiamo chiarito. E quindi il vicepreside le avrebbe fatto capire che insomma forse poteva farsi gli affari suoi. No, volevo sapere da me a che punto io mettevo in pericolo, cioè mia figlia metteva in pericolo gli altri e via di seguito. Quindi diciamo una situazione, guardi, mi creda, imbarazzante. Beh, immagino. Io a questo punto non so come si chiama il vicepreside, ma lo andrò sicuramente a cercare per intervistarlo su questo punto. Come si chiama il vicepreside? espressore per Conte. E il vicepresidente. Io ho fatto anche poi un comunicato stampa dove chiarivo le fasi della telefonata con il vicepresidente. In quel momento, diciamo, è stato bruttissimo. Oh. Per me e per la mia famiglia, perché già noi siamo stati isolati, siamo stati certo. scacciati completamente dalla vita sociale di Bivona. Certo. Quindi per noi la vicinanza delle persone è importante. E infatti noi siamo qui per questo, ovviamente non abbandoneremo la sua storia, lo dico sempre, continueremo a seguirle, anzi avvertiteci di ogni modifica. In bene, come ci auguriamo, in male, come invece non ci auguriamo che doveste subire voi o chiunque altro noi contattiamo. La ringrazio per questa testimonianza, Cutrò. Grazie a Regia Filippo Reggi, in redazione a Laura Faggini e Roberto Calullo. Vi auguro una buona giornata.